qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonanotte a tutti e bentornati a un'altra puntata delle buonanotti di allineamenti. Siete qui con Mendo su Ciao Como Radio. Spero state bene. Io questa settimana ho avuto un incontro particolare. Sapete, quelle persone che non vedi da un po' e le ribecchi nelle occasioni più improprie, tipo un concerto, e a malapena riesci a parlarti e non sai cosa dirti, e sei con altri amici e boh, ti guardi, ti saluti. Ciao, come stai? È una vita che non ci vediamo. Sì, è proprio una vita che non ci vediamo, ma è tutto così strano. E a breve devi partire, andare dall'altra parte del mondo. Ciao, come stai? Tutto bene? Volevo leggervi una poesia di Eliot, che è più o meno come questa storia. E si chiama Cyrus Palace. E fa così. Around a fountain which flows with the voice of men in pain are flowers that no man knows. Their petals are fanged and red with hideous streak and stain. They sprang from the limbs of the dead. We shall not come here again. Panther ride from the lairs in the forest which thicken below. Along the garden stairs the sluggish python lies. The peacocks walk stately and slow, and if they look at us with the eyes of men who we knew long ago. Volevo regalartene un'altra che è molto in linea con la buonanotte e si chiama Nocturne. Romeo, grand sérieux, to importune, guitar and a hat in a hand, beside the gate, with Juliet in the usual debate, of love beneath and bore but courteous moon, the conversation failing, strikes some tune, banal and out of pity for this fate, behind the wall I have some servant wait, stab and the lady sinks into a swoon. Blood looks effective on the moonlight ground, the hero smiles. In my best mode oblique, rolls toward the moon a frenzied eye profound. Not do ye the love forever? Love next week? While female readers all in tears are drowned, the perfect climax all true lovers seek. Spero abbiate passato una buona notte. Adesso vi lascio con una canzone di Sampa, Plastic 100. Buonanotte. Hello. love those mornings when the sun's up smoking in the lobby, yeah, waiting for my name to pop up, yeah, pop up. And usually I'd run home and tuck the issue under, yeah, living with my worries. I didn't really know what that lump was, yeah. My luck is so high, I've been melting out here. I'm made out of plastic out here. You touch down in the base of my fears. Houston, can you hear? And we both had to harness our pain. Close it and hope with the case. Oh, in hell and I'm up and away. Up and away, yeah. Yeah, yeah, ha. You didn't know what the scarecrow is. It's like outer space in his inner ears. And like a blossom you opened up. And you understood why you could not love. Oh, it's so hot, I've been melting out here. I'm made out of plastic out here. You touch down in the base of my fears. Houston, can you hear? And we both had to harness our pain. Close it and hope it decays. Oh, in hell and I'm up and away. Up and away. Gente che saluta solo con i guanti. E qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.